Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il maggio del 1859. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Siamo ancora con una puntata speciale, con le cronache di guerra, cronache che raccontano di una vittoria franco-piemontese schiacciante, ottenuta in più battaglie. La serie di vittorie con cui i franco-piemontesi sono arrivati a Milano non è ancora decisiva. Pesa troppo il ricordo di come è finita la prima guerra tra Regno di Sardegna e Austria. Tuttavia l'ingresso nella città del Duomo è un segnale che fa pendere fortemente il piatto della bilancia dalla parte di Torino e Parigi. Andiamo con ordine. Il 14 maggio Napoleone III, partito da Parigi il 10 e sbarcato il 12 a Genova, ha raggiunto Alessandria per assumere il comando. Gli austriaci, rientrati in Lombardia dopo la sortita in Piemonte, lanciano una grande ricognizione a sud di Pavia, ma a Montebello tra 20 e 21 maggio i francesi del generale Forey, supportati in modo determinante dalla cavalleria sarda del colonnello Morelli di Popolo, li respingono. Intanto Garibaldi ha lanciato un attacco dal Lago Maggiore con i suoi cacciatori delle Alpi. Il 27 maggio vince a Sanfermo e occupa Como. Sul fronte sud il 30 e il 31 maggio le truppe al comando di Enrico Cialdini e Giacomo Durando vincono a Palestro. Lo stesso re Vittorio Emanuele II contrattacca insieme agli Zuavi, guadagnandosi il titolo di caporale del corpo. In parallelo altre vittorie vengono ottenute a Vinzaglio e Confienza. A questo punto il maresciallo austriaco Ferenc Giulai capisce di avere sbagliato nell'attendersi un attacco dal fronte sud, da Alessandria verso Pavia. Napoleone III infatti con il grosso delle truppe ha ormai passato il Po a Casale spostandosi verso il Novarese. La notte tra il 2 e il 3 giugno il genio francese, protetto dall'artiglieria, getta un ponte di barche sul Ticino di fronte a Turbigo. Inizia così il primo passaggio del secondo corpo d'armata che sostiene i primi scontri proprio a Turbigo e Robecchetto. La partita decisiva di Magenta inizia così. La mattina del 4 il generale MacMahon lancia l'attacco su due colonne verso Marcallo e Boffalora. Da Trecate Napoleone III ordina alle truppe di passare il Ticino al naviglio di Boffalora, al Ponte Vecchio e al Ponte Nuovo. Gli austriaci fanno saltare i primi due ponti e da Abbiategrasso comincia ad affluire verso Magenta il grosso delle truppe di Vienna. I combattimenti sono accaniti, la partita volge a favore dei franco-piemontesi quando MacMahon punta verso Magenta. Gli austriaci si ritirano verso la cittadina Lombarda, i francesi passano il Ponte Nuovo. Lo scontro finale a Magenta è durissimo. Gli austriaci asserragliati nelle case si difendono metro per metro. Piano piano però la tenaglia francese si chiude e verso sera i bersaglieri del generale Fanti lanciano l'attacco sul lato sinistro. La battaglia è vinta, gli austriaci si ritirano. MacMahon è nominato maresciallo di Francia e duca di Magenta. L'8 giugno Vittorio Emanuele II e Napoleone III entrano da vincitori in Milano, sfilando sotto l'arco della pace in Corso Sempione. A Verona è arrivato l'imperatore Francesco Giuseppe, che ha deciso di avocare a sé il comando delle truppe. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed è tutto anche per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Scriveteci a gazzettino@radio24.it oppure sulla nostra pagina Facebook, visitate il nostro blog, scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.